Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Know me like you know me, nah nah yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah nah yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah nah yeah. Quanto credi davvero ancora di poter raggiungere quel benedetto terzo posto? O è troppo lontano? Noi non ci dobbiamo porre limiti, nel senso che dobbiamo pensare di poter vincere ogni singola partita. Credo che abbiamo i valori per poter ragionare così, credo che abbiamo le qualità per poter giocarci ogni partita con le possibilità di vincerla, e così dobbiamo fare. Voi mi avete abituato a fare anche dei discorsi ogni tanto matematici: se vince la Juventus si guadagna 3 punti sul Napoli, se vince il Napoli si guadagna 3 punti sulla Juventus, se pareggiano se ne guadagna 2 sul Napoli e 2 sulla Juventus. Siamo sempre lì a patire quando giocano gli altri, va dentro, va fuori, va dentro, va fuori. Ora se tu vinci stasera tutte e due non vincano, per cui guardiamola e lasciamola giocare a quegli altri senza buttarvi anche energie anche sulle partite degli altri, perché sennò poi ci si infortuna di più. Le altre guardo poco perché tra 2 giorni avremo la partita con la Roma, che sarà una partita per noi importantissima. Poi sappiamo che da mercoledì, indipendentemente, dovremo pensare a Napoli. Abbiamo un calendario importante, difficile, però sono anche convinto che affrontare una gara dopo gara con una concentrazione giusta potremo toglierci altre soddisfazioni. Pescara davvero Maidomo, Pescara che ferma sul pareggio il Milan nella sua rincorsa europea, finisce 1-1 per la soddisfazione di Zeman, per l'amarezza invece di Donnarumma e ovviamente di Vincenzo Montella. Oh, il calcio è davvero uno sport meraviglioso. In un weekend che doveva essere una semplice tappa di trasferimento in attesa di Napoli-Juventus, ovvero il pordoi di questa fase del campionato, esce che la Roma questa sera può sperare di riaprire i giochi se il Napoli facesse un regalo e comunque, come ha detto Spalletti, avrà da guadagnarci. Il Milan si ferma a Pescara con un risultato che assomiglia a una sentenza 1-1. Abbiamo visto Donnarumma fare la prima vera papera della sua carriera e adesso ne parliamo. E poi abbiamo visto l'Atalanta che continua a spostare in là i limiti del possibile. 800 24 00 24, siamo in diretta fino alle 19. Questo è il numero che vi chiedo di fare per prenotarvi, intervenire. Voglio sapere cosa ne pensate intanto di Napoli-Juve di questa sera, ma anche dei risultati di questa domenica che ha visto cadere, o meglio pareggiare, il Milan a Pescara. Risultato non banale, no Carlo? Anche se io ho una mia teoria. Qual è la tua teoria? La teoria è che quando sei sempre sul filo, prima o poi capita. Il sì. Milan aveva vinto 7 volte 1-0, 12 volte con un gol di scarto, spesso cavandosela magari negli ultimi minuti in coda a partite un po' complicate, e prima o poi capita che va male. Sì, prima o poi capita che va male, magari Pescara non è esattamente l'avversario più idoneo per farla andare male, perché insomma era una, se non è una partita facile questa contro l'ultimo in classifica, già praticamente retrocessa, non ne esistono altre. Il Milan ha giocato un brutto primo tempo, la papera di Donnarumma, vabbè, ci sta, forse stiamo cominciando a mettere troppa pressione a sto ragazzo, però fare discorsi generalisti è sbagliato. È un fatto che, come è successo a Buffon, come è successo a tutti i grandi portieri della storia, si può sbagliare, soprattutto all'inizio della propria storia. Si può sbagliare, sbagliato però il Milan a non rimetterlo in piedi. Saluto Matteo Marani, vice direttore di Sky. Ciao Matteo. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Si può sbagliare anche se ci si chiama Donnarumma, sì. Sì, si può sbagliare, certamente proprio nella settimana del debutto dal primo minuto in azzurro non ci voleva. È andato male su quella palla, a volte c'è un po' il rischio che magari ci vai con un minimo di sufficienza o di eccessiva sicurezza. E l'ha pagata tutta, e l'ha pagata tutta, per cui io credo che da qui in avanti non andrà più in quel modo lì su una palla. può essere che gli stia anche utile alla fine. Per sbagliando si impara, è il senso. Assolutamente. Sì, anche Paletta non ha, anche Paletta non ha messo un pallone straordinario, no, direttore? No, assolutamente, sono d'accordo. È stato inciso moltissimo la velocità, era un pallone molto forte e difficile da mettere, però probabilmente una prossima volta ci va con tutto il corpo davanti e non lascia solo il piede. Ma secondo te cos'è, un errore psicologico o semplicemente tecnico? Cioè, tu sottolineavi, questa è la settimana del primo debutto, dal primo minuto in nazionale, insomma tutte le voci, tutti i paragoni con Buffon, tutte e due le cose. Come errore, lo classifichiamo? Errore tecnico o errore mentale? Anche quello è un pallone difficile da domare, e l'unico modo di tenere sempre una seconda uscita come portiere è quella di andarci probabilmente con il corpo, in modo tale da non lasciare solo il piede, perché se in effetti sbagli l'intervento come ha fatto lui, poi la palla passa e va dentro. È successo a tanti portieri, succede, cioè è successo a Buffon, è successo a tutti quanti. A volte magari non ti aspetti che un pallone diventi così difficile e sfugge la situazione, esattamente quello che è successo a lui. Ma avendo 18 anni, io credo che sia, volendo, anche cose di cui farne tesoro. Sì, e Milan aveva 78 minuti più recuperi vari anche per rimettere in piedi questa partita. Io credo che il Milan di quest'anno sia questo. Tante volte l'abbiamo elogiato, anche oggi c'è stato l'assalto finale, poteva anche uscire il 2-1, c'è stato un palo di Romagnoli, però insomma io i numeri li ho dati prima: 7 vittorie per 1-0, 12 con un solo gol di scarto, quando tu stai sempre sul filo. Prima o poi, io in settimana ho detto, intervenivo in una trasmissione, chi sta fuori dall'Europa League, io ho detto attenzione, rischia al Milan, perché delle quattro che stanno lottando mi pare quella meno attrezzata. Sì, esattamente questo, ti ascoltavo prima Giovanni, credo anch'io che il Milan quest'anno abbia ottenuto spesso vittorie o punti in maniera magari anche al di là in alcune gare dei match. Secondo me Montella ha fatto un grandissimo lavoro e sta facendo un grandissimo lavoro, ma la squadra non ha una qualità eccellente come gruppo, come squadra. Guardavo oggi, insomma, tolto qualche giocata di De Lofeu, però è una squadra che non ha grandissima qualità e quindi si deve sempre un po' aggrappare a questa rabbia magari dei suoi attaccanti, questa capacità di trasformare le situazioni e di approfittare, perché se vinci 7 volte 1-0 non può essere un caso. No. Certamente stavolta hai pagato tutto, hai pagato questa cosa sfortunata e poi dopo hai avuto anche le occasioni per vincere questa partita e non ce l'hai fatta. Vedendo come sta andando l'Atalanta, credo che sia dura. Sì, Atalanta di cui adesso, Matteo, parliamo un attimo, perché c'è Montella e microfoni di premium. Le cose ci sta di commettere un errore di questo tipo. Deve stare tranquillo Gigi. Avessimo vinto la partita ci avremmo sorrisi tutti sopra, ma io per me non, queste sono situazioni che possono capitare, non è, deve rimanere tranquillo e sereno come ha dimostrato poi nel corso della partita. Tra l'altro lei è stato il primo ad applaudirlo, anche questa è una cosa che abbiamo sottolineato durante il corso della partita per incitarlo, anche per non fargli perdere la concentrazione. Abbiamo visto la classifica prima, c'è stato un leggero strappo verso l'alto con Atalanta, con la Lazio, questo può risultare decisivo, visto anche il risultato di oggi, secondo lei ai fini della corsa? Speriamo che lo pensino così anche gli avversari, io credo di no. Credo che il cammino è veramente molto aperto, ci sono 8 partite, naturalmente è vantaggio chi ha più punti, io mi auguro davvero che chi davanti pensi che la corsa sia finita. Questo Montella, non credo che faranno quell'errore, a partire dall'Atalanta, ma penso anche l'Inter domani sera, no Matteo? Ma mi sembrano tutte e due le nerazzurre in questo momento con qualcosa in più del Milan, l'Inter certamente come qualità complessiva di rosa, no? Ma in questo momento non c'è proporzione tra i due milanesi come qualità di rosa complessiva, e l'Atalanta è la storia più bella di questo campionato, perché è una squadra che gioca in maniera corale, straordinaria, correndo il doppio, il triplo delle altre squadre, facendo grande gioco. Tra l'altro oggi proprio a Genova contro il suo ex Genova, Gasperini ha dato una lezione di calcio totale e completa, molto anche inneggiato dai suoi vecchi tifosi, perché si vede tutta la mano di Gasperini in questa Atalanta. È vero che è un'Atalanta di giovani che ha grande entusiasmo, ma è guidata, secondo me, in maniera eccezionale dal suo allenatore. E anche da un certo Papu Gomez. Poi vi do due numeri su Papu Gomez dopo oggi tripletta. Anzi, ve li do subito. 14 gol, che ovviamente è il suo record personale, 11 nel 2017. Non c'è nessun attaccante, nessun giocatore che ha segnato come lui nel nuovo anno. Sì, però stanno giocando bene tutti. No, per carità, assolutamente giusto sottolineare i meriti di Gomez, che in questo momento è uno dei più forti di tutto il campionato. Però dico, giocano tutti bene in questa Atalanta. Gioca bene Caldara, gioca benissimo Spinazzola. Addirittura Conti tenta quella giocata e gli riesce. Quindi piena e totale fiducia da parte di chi va in campo. E nelle squadre di Gasperini la mano la vedi. La si vedeva nel Genoa, quando era col Genoa. Lo si vede ovviamente oggi nell'Atalanta. Purtroppo credo che questo rimanga un po' il suo... della sua carriera, non è riuscito a esprimerlo nell'Inter per una serie di ragioni, ma siamo di fronte a uno degli allenatori, io credo, di questa generazione tra i più bravi. Assolutamente. C'è chi ci chiede di tenerlo informato sul Fiandre, è appena finito e ha vinto Gilbert, attaccato a 55 km dalla fine, ha vinto davanti a Van Avermaet, Peter Sagan è caduto. Adesso vi dico anche però perché il Milan deve continuare a credere nella possibilità di entrare in Europa League, perché in realtà se si dà un'occhiata al calendario lo spazio per andare oltre quota 70 punti c'è. Ringrazio Matteo Marani, grazie Matteo. Ciao, grazie direttore. A proposito di Atalanta, vi racconto anche dello sfogo del presidente Preziosi, che oggi è stato pesantemente contestato a Marassi, Genoa 0, Atalanta 5. La cosa che più mi fa arrabbiare sono gli insulti verso la famiglia. Vogliono che me ne vada, buona fortuna a chi arriverà, se arriverà. Per ora vado avanti per la mia strada. 800 24 0024, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Mi ripeto ancora il numero 800 24 00 24, per chiamare, prenotarsi, intervenire in diretta fino alle 19. Adesso vi dico come il Milan può andare oltre quota 70. Roberto da Roma. Buonasera, grazie della convocazione. Eccoci, buonasera a te. Un interrogativo, scusi, mi frulla nella mente. Sì. Ed è quello che riguarda la Roma e Pallotta. Perché la Roma Pallotta dovrebbe rinnovare il contratto a Spalletti, visto che insomma le gare, i risultati non hanno dato ragione all'allenatore stesso? Quindi per quale motivo, premesso che lui possa essere un bravissimo allenatore... Premesso però, che Spalletti voglia stare a Roma? Ecco, cosa poi, che non è assolutamente scontata, Ah, certo. Però da un punto di vista, chiamiamolo morale, eccetera, supplicante quasi la Roma a dover fermare Spalletti, mi pare un po' esagerato. Sì, il teatrino effettivamente è sconveniente. I risultati di Spalletti credo siano indiscutibili. Ha sbagliato delle partite importanti, primo fra tutto il preliminare di ritorno contro il Porto, su questo non c'è assolutamente dubbio. Primo fra tutti. Porto che è una grande squadra, si può uscire ma non in quella maniera. Però effettivamente io credo che la storia sia finita, l'abbiamo capito tutti a Roma e sarebbe anche il caso di dirselo in maniera chiara. E questo incide che sul fatto che la storia sia agli sgoccioli, questo incide perché non è tanto, non si può dire che in campionato abbia fatto male, perché di fronte allo strapotere della Juventus la Roma è lì seconda a 68 punti, là dove deve stare, più di così non poteva spremere da questa squadra, peraltro piuttosto corta nelle rotazioni, più corta addirittura del Napoli, l'abbiamo detto mille volte. Più che altro sarebbe tempo a Roma di alzare qualcosa, di qualche trofeo, perché la Coppa Italia rischia seriamente di sfumare e lì possono stare delle colpe. E l'Europa League, è un peccato che la Roma sia uscita contro una squadra abbordabilissima come il Lione. Sì, anche se lì le colpe credo siano più della società che di Spalletti, e lo si è visto nel calo, nel crollo fisico di quelle settimane. Comincio a salutare Michele Plastino. Ciao Michele. Ciao Michele. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Adesso ci dici che cosa ne pensi, perché poi insomma ieri hanno vinto tutte e due le romane. In questo momento la Lazio è quarta e se questa sera il Napoli non dovesse vincere, con la prospettiva settimana prossima dopo il derby di giocare Lazio-Napoli, è sinceramente la più forte candidata per il terzo posto della Champions League. Spesso ce la dimentichiamo. Però ieri era evidente che tutte e due avessero in testa il derby. I giornali li leggo tutti i giorni, ho visto che molto riferimento e molta importanza era stata data alla partita di martedì, perché mi è infatti naturalmente, se noi non avessimo vinto questa partita, io avessi dovuto entrare nello spogliatoio domattina parlando di alcuni errori della partita di stasera, diventa una roba difficilissima. Invece ora, con questa vittoria qui, da domani si può cominciare a parlare subito di quella successiva, di questa qui, che è importantissima, insomma. A Napoli ci penseremo da mercoledì, adesso abbiamo martedì una partita fondamentale per noi, perché siamo a 90 minuti dalla finale, però sappiamo che incontreremo una grandissima squadra, però quello che mi fa star sereno è la vittoria di oggi, perché giocavamo contro un avversario non semplice, abbiamo vinto una partita per noi fondamentale. Secondo me dicevano tutti e due una mezza bugia, Michele. In che senso? Nel senso che ieri tutti e due avevano in testa il derby, altro che l'Empoli, altro che il Sassuolo, e Inzaghi comunque in testa c'ha anche la partita col Napoli. Ah beh, vabbè, questo soprattutto a livello inconscio è sicuro al 100%, hai ragione tu. Però è vero anche quello che dicono tutti e due, ecco perché giustamente tu dici mezza, perché qualsiasi battuta d'arresto ci fosse stata ieri avrebbe avuto le ripercussioni per martedì, soprattutto la Roma, soprattutto la Roma, perché chiaramente aveva l'impegno tra virgolette più facile, sì, più facile. Poi c'è da dire che entrambe hanno vinto anche, diciamoci la verità, anche aiutate da un pizzico di buona sorte, perché insomma, sì, soprattutto la Lazio ieri, insomma, portata a casa e forse non la meritava. Guarda, ma anche la Roma l'arbitro Massa, diciamo che non è nel miglior momento della sua carriera, diciamo così, non è in grandi condizioni di forma, però al di là di questo, all'inizio, se anche gli avesse dato rigore non era espulsione, io credo che la Roma avrebbe avuto tutto il tempo per ribaltarlo. In ogni caso è chiaro che entrambi hanno in testa al derby, ma anche per il discorso che facevo prima, soprattutto per la Roma che correrà in salita, sarebbe il momento di comunque di concretizzare qualche cosa, perché ripeto, in campionato più di così sinceramente non poteva fare. Nelle altre manifestazioni, Champions League preliminare certamente, Europa League certamente, e Coppa Italia rischia di uscire contro l'avversaria meno gradita ai suoi tifosi. Ma Michele, ci credi che insomma, se stasera il Napoli dovesse battere la Juve, che è un evento magari non probabilissimo ma non impossibile, cioè la Roma si troverebbe a 5 punti dalla Juve con lo scontro diretto in casa? E già a Roma è come se si parlasse solo dell'anno prossimo. Sì, hai ragione. Però ecco, sulla partita, lo dicevo anche stamattina nel corso della trasmissione Sky, bisognerebbe chiedere per capire proprio l'annata ai tifosi della Roma stasera per che cosa tifino, cioè che cosa sperano, cioè sperano nella vittoria della Napoli in modo tale che comunque ritorna la speranza, o il contrario per consolidare il terzo posto? Secondo te? Guarda, la psicologia del romanista, se si scherza sempre a Roma, è che tiferanno Napoli nella mira della Juventus. Io dico che poi alla fine tifano Juventus ufficialmente, no? Nel parlare così tra di loro, ma poi sotto sotto invece il discorso cambia, perché poi alla fine se levi il sogno del calcio levi tutto. Poi a conferma un po' di quello che dicevate prima, anche se tu vedi Roma-Empoli, al secondo gol di Dzeko sembra quasi come i giocatori della Roma stiano finendo una pratica così di lavoro, come timbrare il cartellino, non c'è neanche un risultato, sembravano tutti ex dell'Empoli, sai quando uno fa gol e che neanche esulta, e questo a significare proprio quello, che un po' la testa poi è al derby. E concludo dicendo proprio questo, che sai, la Roma vive questa partita adesso addirittura con forse più spensieratezza, perché è la Lazio che c'ha in mano, no, le fish decisive, no, per vincere la gara con i due gol di vantaggio, quindi la Roma sente il tutto per tutto. Però c'è anche da dire che, come stavate dicendo giustamente voi, che il secondo posto è un grande risultato, ma non si alza, nel senso che è uno scudetto che si alza e si appiccica, è una coppa che si alza. Bisogna alzare dell'argenteria, Michele, è questo che manca alla Roma. Allora ha ragione Spalletti. Ha ragione Spalletti, sì, ma guarda, ha ragione anche Plastico nel dire che i sogni aiutano a vivere meglio, come diceva qualcuno. Però io credo che anche se la Juventus ci lasciasse le penne stasera a Napoli, cosa possibile, è una squadra matura e forte a sufficienza per gestire anche un confronto diretto a Roma con 5 punti che non sono pochissimi di no, ma io credo che la Juve resterebbe favorita a prescindere. È per stupefacente anche dovesse perdere a Napoli senza alcun problema, anche col confronto all'Olimpico, al di là dei sogni. Però è paradossale ed è stupefacente, secondo me, il clima di depressione, di mancato entusiasmo, con già la testa quasi proiettata alla prossima stagione, che sta accompagnando questa fase della stagione della Roma. Ieri abbiamo visto Dzeko dire, dopo una partita comunque decisa così, ma sì, forse Spalletti va via anche se vinciamo qualcosa. Tutti proiettati all'anno prossimo. Io trovo questo davvero paradossale, Michele. Non aggiungo altro, sono perfettamente d'accordo con te. È una storia che si vive già da parecchio tempo, voglio dire, questa storia del pensiero al prossimo campionato penso che sia addirittura da prima di Natale, e un po' a contribuire a fare tutto questo è lo stesso Spalletti con la storia se non vinco, poi tra l'altro ci porta pure male perché da quando dice così poi non vince e viene anche fatto un po' fuori, un po' per crearsi forse anche un alibi per una partenza a fine campionato, credo proprio perché comunque la Juve sta lì che sembra sempre irraggiungibile, non si capisce perché, ma proprio tutta l'atmosfera è quella che poi ha diviso anche un po' l'ambiente a Roma. Ormai ci stanno mille squadre, non ce ne stanno solo due, nella Lazio si sa ce ne sono due nette, di proprio così, Lotito contro Lotito. Nella Roma ogni tanto si crea una frattura, no? Cioè prima società non società, poi Totti o non Totti, adesso Spalletti e non Spalletti. Evidentemente sono poche due squadre per Roma. Ce ne vogliono 4-5. Ci crede a Mancini come dopo Spalletti? Secondo me. Sì, no, lo dico perché oggi il Messaggero ha pubblicato questa foto. Ieri Mancini è stato un'ora nel palazzo sede del quartier generale di Pallotta quando va a Roma. Ufficialmente lui dice che c'è lì anche il suo parrucchiere. Però in tanti hanno fatto 1+1. I barbieri sono importanti nella storia, anche nella cinematografia, eccetera, eccetera. Quindi può essere che fosse lì davvero il suo barbiere. Magari ha incontrato Pallotti in ascensore, come fai a saperlo? Ma sarebbe l'uomo giusto, Michele? Mancini è uno che comunque è bravo a saper gestire gli ambienti, al di là delle qualità dell'allenatore. È chiaro che deve superare il peso del passato, no? Per quello che riguarda la sua appartenenza alla Lazio, che non è stata non significativa, ci ha vinto lo scudetto. Però dico, lì è facile capire, cioè nel senso, se c'è veramente un parrucchiere allora è probabile che abbia ragione, perché è difficile che Mancini, per smentire, riesce ad indagare e sapere che lì c'è un parrucchiere. Quindi su questa cosa ci voglio lavorare. Allora ci proviamo. Grazie Michele. Ciao, grazie Michele. A voi, buon lavoro. Grazie, ciao, Michele Plastino. Ciao. Grazie. Roberto da Messina. Roberto. Buongiorno, grazie della convocazione. Grazie a te. Complimenti per il vostro equilibrio, contrariamente a tante trasmissioni che sento. Vabbè, lasciamo grazie. Perdere. Volevo fare anche una critica. Io cammino molto con la macchina, vi sento sempre i vari princesse di Radio 24, ma sta frequenza prenderla è veramente adesso lo segnaliamo. Vabbè, problemi che ci vuole fare? Che ci vuole fare? Usi il computer, ci ascolti in podcast, insomma usi l'app sullo smartphone. La radio quando sento Pardo, poi altri, è una cosa bellissima e mi rilassa tanto tra tutti i problemi del lavoro che ci sono. Comunque, chiusa questa parentesi, non voglio rubare tanto tempo anche agli altri ascoltatori. Vai. Io volevo dire che i politici si facciano i politici, che già lo fanno male. Figuriamoci se si occupano pure dello sport, che De Magistris si faccia il sindaco, perché abbiamo lo sport più bello del mondo, dove in Italia abbiamo 3 testate nazionali che si occupano di sport. Ma perché dobbiamo rovinare questo sport bellissimo che trainare anche per gli altri sport? Io dico, amo Napoli, io sono uno del sud e sono andato tante volte a Napoli, a tanta accoglienza, una città bellissima, sono juventino preciso, e perciò non riesco a capire tutto questo odio che c'è nella Juve. Tra l'altro tanti dirigenti hanno sbagliato nel passato, la Juve è ripartita dalla Serie B, si è rifatta una nuova dirigenza. Roberto, la settimana che ci ha portato a Napoli Juve non è stata straordinaria. straordinaria dal punto di vista dell'esibizione di chi doveva almeno provare a stemperare i toni, ma io sono convinto che stasera andrà bene. Adesso ci fermiamo un minuto, poi torniamo, arriva Pierluigi Pardo, cominciamo a parlare proprio di Napoli-Juve, ne parliamo con Guidolin, poi dopo le 18 arriva Adriano Bacconi, arriva José Altafini, core ingrato, e quindi facciamo anche noi la nostra vigilia, c'è Preziosi sotto tiro a Marassi. Tutti convocati. Convocati. Io sono pienamente convinto che i tifosi napoletani saranno un esempio di grande civiltà e correttezza, ma come deve essere, ma non se ne dovrebbe neanche parlare di queste cose qui. Sono il maestro di pernacchia per antonomasia. Gonzalo Golasso Higuaín. E di tutto quello che succederà e di quello che viene detto ci deve colpire e scalfire assolutamente niente. Noi bisogna essere sereni, belli come il sole e fare una partita in totale serenità. Yamma bella, ballammo sta tarantella, una coppia ancora nata e facimmoci sta ballata. Io non ho mai detto che Higuaín passerà una brutta giornata a San Paolo, ho solo detto che è nostra intenzione far passare una brutta giornata alla Juventus. Onno Antonio mo si scanza, callo peso un po' avanza, dice che palle per guagliune e so samagna tu i maccaroni. Io credo che in Italia si viva sulla polemica e non si esalta mai quello che viene fatto o non si gode mai il momento, si pensa sempre a quello che può succedere, alla polemica, si trovano sempre le scuse, si dà sempre la colpa agli altri, e invece io credo che bisogna guardare un po' più in casa senza stare a guardare fuori. Visto il tipo di pubblico che abbiamo noi, che non è, che è un pubblico fondamentalmente umile. So che gli arbitri sono sponsorizzati dalla Fiat e quindi dalla Juventus. Cioè lei lo dice ogni tanto allo stadio, è Juve merda, Juve merda, che ne so. Qualche volta sì, quando lo merita assolutamente sì. Oh, rapido blob di questa settimana di vigilia di Napoli-Juve 800-24-0024. Oppure se volete mandare sms e whatsapp 349-238-6666, primo numero, chiamatevi, prenotate e intervenite in diretta. L'altro, per mandare i vostri messaggi, da questo momento è ufficialmente aperto il pronosticone di Napoli-Juve di questa sera. C'è anche Pierluigi? Ciao Piero. Ciao Pierino. Ciao. Allora, insomma, io devo dire, ne parlavamo prima anche con Michele Plastino, tra l'altro dopo aver visto oggi riaprirsi la lotta per non retrocedere, con la vittoria del Crotone dopo la sconfitta sull'Empoli. E insomma, 5 punti, è vero che il calendario del Crotone è pessimo, però se una squadra è ferma basta andare piano per raggiungerla. Sì, diciamo che in questo momento Empoli e Genoa sono le due squadre peggiori del campionato. Sabato Empoli Pescara, dai. Siamo Empoli Pescara sabato, se Empoli vince. Sì. Secondo me. Sì. È un amico, vediamo. Sì. Sì. Può essere, però quando una squadra in 9 partite fa un punto e ne ha perse le ultime 7, anche la partita col Pescara, come insegna condiziona il Milan, molto il disegno della classifica, cioè la classifica che si è disegnata, quindi volente o nolente l'Empoli si è trovato salvo e ha spento il motore. Poi io continuo un po' pensare, in anticipo, un girone in anticipo è un po' troppo. Sì, è tanto, però questo campionato è fatto così, non c'è nulla da dire. Ma diciamo che abbiamo anche altri discorsi. Sì, volevo sapere da Pier se considera chiusa invece la vicenda del Milan per l'Europa League, con il pareggio di oggi a Pescara. Direi che i segnali sono abbastanza precisi e non sono confortanti. Per me il Milan comunque è dietro le altre, è nettamente dietro la Lazio, è dietro all'Inter, dietro anche l'Atalanta, perché se l'Atalanta continua a giocare così, francamente mi sembra che non ci sia storia. In più, se vogliamo insomma aggiungere un ulteriore elemento, è chiaro che arrivare sesti con le tournée estive, con il derby il 24 dell'ICC in Asia tra Inter e Milan, cioè, sesto posto è una iattura. Possiamo tradurla. All'inizio della partita non si è riuscita e proverà a risalire in classifica più possibile, però insomma non mi sembra onestamente facilissimo. No, anche se Pier, perdonami, Lazio Inter Atalanta sotto. Sì, anche se in realtà il Milan ha 54 punti, ha 5 partite che sulla carta vince e poi si gioca tutto in realtà contro Inter Atalanta e Roma. Sì, però sai, in questo campionato di partite così una non vinci, e al Milan è capitato oggi. In realtà arrivare a 70-72 punti non è impossibile per il Milan, ancora qualche margine c'è. Cominciamo però a buttarci su Napoli-Juve. Intanto saluto Francesco Guidolin. Ciao mister, buon pomeriggio. Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti. Parlavamo di Gasperini, magari l'anno prossimo votano lui come panchina d'oro. Sì, però io prima volevo, dato che non l'ho vista, mister, mi racconta cosa è successo nel ciclismo? No, non so niente, ho registrato, ero fuori. Non ti diciamo chi ha vinto. Non ho potuto vedere niente, quindi vedrò in registrazione dopo. Indifferita, va bene. Sì. Senti, ma Allegri e Sarri sono davvero i due migliori tecnici che abbiamo in Serie A? Beh, sono molto bravi, ma non penso che siano gli unici o i più, magari saranno i più bravi quest'anno. Allegri è bravo da un po' di anni perché vince sempre il campionato, ma ha anche la squadra più forte, e forse lo vincerebbe anche qualcun altro il campionato con la squadra più forte, senza togliere nessun merito a Massimiliano, che ha vinto anche col Milan e sta facendo una carriera straordinaria. E così anche per Sarri, dopo tanta gavetta, è arrivato la giusta, come dire, collocazione, fa giocare la squadra molto bene, ma insomma ne vedo anche altri, io, allenatori molto bravi, Gasperini sicuramente uno di quelli, uno di chi ha fatto tanta Serie A, tanta gavetta, tanti buoni risultati, e quest'anno sta facendo qualcosa di straordinario con una squadra giovane, con giocatori poco conosciuti, e questo secondo me aumenta il merito. Ma tu l'avresti votato Sarri alla panchina d'oro? Sì, perché no? Perché no? Senz'altro. Io sono contento abbia vinto non l'allenatore della Juve, ma non perché ce l'abbiamo con la Juve, ma perché è diverso, evidentemente la panchina d'oro è diversa dal pallone d'oro, dove alla fine conta chi ha vinto e si va quasi in fotocopia. Ha vinto Sarri perché sicuramente credo, a parte ha vinto di misura, che gli allenatori abbiano voluto premiare la novità, certo tipo di qualità anche estetica del gioco di Sarri, poi insomma penso anch'io sia stato così, ed è stato così anche per me quando ho vinto la panchina d'oro, perché c'era appunto ancora Massimiliano che aveva vinto il campionato anche in quell'occasione, ma i nostri colleghi nel 2012, se non ricordo male, tu hai vinto per il 2010-2011 quarto posto con record di punti dell'Udinese, esatto, quindi probabilmente anche per cambiare un po'. No, ma è giusto che conti il rapporto qualità-prezzo, anche perché altrimenti rimane come il pallone d'oro degli ultimi anni. Adesso hanno cambiato le regole, però sono due palle così tra Messi e Cristiano Ronaldo. Due palloni posso d'oro. Posso chiedere al mister come si ragionerebbe da due punti di vista, dal punto di vista di Allegri e dal punto di vista di Sarri, la partita di stasera, cioè facendo un po' di teoria sulle cose da dire alla squadra, sul tipo di piano tattico di partita. Non so da chi vuoi cominciare. Non saprei, cioè io credo che loro l'abbiano preparata veramente molto bene questa gara. Non penso che sarà una gara molto bella, molto intensa, un bel calcio, che le squadre giocheranno per vincere. Io penso che Allegri avrà detto alla propria squadra, o dirà alla propria squadra, che per fare risultato a Napoli bisogna fare gol, perché 0-0 in Serie A in generale, ma in un campo così, contro una squadra così, è difficile da fare, quindi sarà sicuramente propositiva la Juventus, però magari non concederà gli spazi, la profondità, i tagli, e Sarri confiderà ancora sicuramente, ed è giusto che sia così, io credo, nel suo gioco, nel suo palleggio, nel suo possesso, nel suo modo di vedere il calcio, insomma, credo che sarà una bella partita. Sì, il Napoli ha segnato 3 o più gol 12 volte su 29 partite in questo campionato, quindi è difficile che faccia 0, credo sia successo soltanto 2 volte. Abbiamo un minuto per il traffico, poi torniamo con Pierluigi Pardo, Francesco Guidolin. Tutti convocati. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Tutti convocati. Tanto facciamo nostro l'SOS che arriva dalla provincia di Cuneo, firmato Anna, qui si rischia una rissa in famiglia. Mio marito vuole vedere Federer Nadal e io Napoli Juve. Abbiamo solo una televisione. Cosa facciamo? Fate come ha fatto Guidolin con il Fiandre, cioè la registrate se avete l'attrezzatura idonea. Una delle due si registra. Non è una scelta facile. Non è una scelta facile. Tu cosa guardi, non Piero? Non è una scelta facile, però neanche una scelta difficile. Dai, insomma, sì. Cioè, Federer Nadal si registra perché. Sì. In diretta non avrei grandi dubbi, ecco. Se uno è molto tifoso di tennis non avrà dubbi al contrario. Può fare il contrario. Meloccaro registra Napoli Juve e tutti gli altri fanno il contrario. Volevo approfittare di Francesco Guidolini invece per chiedergli cosa pensa di quello che ha detto ieri Allegri, cioè il 4-2-3-1 si può fare anche senza Dybala e Mandzukic. Intanto questa sera dovremmo vederne ad esempio una versione almeno senza Dybala. È vero? Credo di sì. Sicuramente lui sta molto meglio di me perché ha i suoi giocatori tutti i giorni, può valutare, capire, sapere. Io sostengo sempre che i giocatori, quando uno dice conosci quel giocatore, se lo hai allenato da un punto di vista allenatore lo conosci, se non lo hai allenato lo conosci solo parzialmente. Detto questo, dico che sicuramente si può fare, anzi per me il 4-2-3-1 con Mandzukic esterno sinistro, francamente io soprattutto in campo europeo e in ottica Champions League spero proprio di sbagliarmi, dovesse essere questa la soluzione, ma non è che lo veda proprio come la migliore delle soluzioni, perché secondo me nel 4-2-3-1 i due esterni attaccanti devono essere due giocatori alla Cuadrado. Certo. In Italia funziona lo stesso perché la Juve è la squadra più forte e vince lo stesso, in Europa non lo so, quindi secondo me si può fare anche senza Dybala. È un po' più complicato perché a me piace molto Dybala, vederlo giocare tra le linee dietro Higuain o Mandzukic. Senza Mandzukic secondo me, nonostante a me piaccia molto, ma come centravanti il 4-2-3-1 si può fare. Però ha una rabbia tale, ha una voglia tale, ha una corsa tale Mandzukic che insomma sembra due giocatori. Ha ragione il mister, ma è una cosa oggettiva, cioè è chiaramente un adattato in quel ruolo lì, no? Su Dybala io credo che Dybala sia veramente la differenza della Juve in questo momento, sia il giocatore più importante del gioco offensivo della Juve, quindi questo credo che sia l'elemento, perché ha un'imprevedibilità, una qualità e anche secondo me quest'anno è impressionante come ha saputo reinventarsi in un ruolo un pochino diverso rispetto all'anno scorso, magari segnando un po' meno, però c'è la presenza di Higuain e quindi ha cambiato posizione, insomma giocatore secondo me con un po' di mugugni e un po' di fatica, però sappiamo anche che la Juventus è in una situazione di emergenza per quanto riguarda gli attaccanti, che Dybala è comunque reduce da qualche problema fisico, che Pjanic si è fatto male e si è fatto male anche Keane, quindi mister, partire dalla panchina senza attaccanti poteva essere rischioso. Sicuramente sì, però la Juve è forte, ha tante risorse, poi ha la forza della squadra che sa di essere forte, che è una squadra che vince tutte le domeniche, tutte le volte che scende in campo, in Italia e per il momento anche fortunatamente e meritatamente anche in Europa. Speriamo che sia così. Sì, ieri Sarri ha detto che è la più forte in Italia per tecnica, tattica, fatturato, organizzazione, peso politico. Tutti si sono soffermati su questa cosa del peso politico come fosse una polemica. Secondo me quella di ieri era un complimento di Sarri alla Juventus. Beh, non ho sentito, ma concordo con lui. Non c'è assolutamente nessun tipo di polemica. Se è la più forte a tutti i livelli in Italia. Ce ne vorrebbe altre due forti così a livello europeo. Non voglio fare l'incendiario, ma l'ultimo incrocio fra Juve e Napoli è stato allo Juventus Stadium in Coppa Italia e sappiamo come è finita, con i comunicati, i tweet, la rottura del silenzio stampa per protestare, quindi il fatto che si sia parlato di peso politico mi sembra abbastanza preciso come discorso. Era evitabile quello. Io voglio difendere Sarri perché ieri ha evitato ogni trappola. Io non lo sto attaccando, sto dicendo che lui ha pienamente il diritto di dire quello che vuole, però se uno dice peso politico dopo quell'antefatto è difficile pensare che non si riferisca a peso politico. Peso politico è peso politico, non è un'altra cosa. però... altrimenti uno dice esperienza. Bravo. Altrimenti uno dice, sono d'accordo con te. Se uno ti dice la Juve è forte, più forte per tutte queste cose, però dobbiamo metterci in testa che da 6 anni a questa parte questi in campo sono di un'altra categoria. Secondo me, non so, Francesco, la pensi te? Fa un'analisi onesta. Bisognerebbe per me partire da lì dal fatto che da 6 anni, sono 6 anni, non lo so di preciso, ma vincono sempre. Ma questo, secondo me, il fatto per esempio che la Roma sia a 5 punti, quindi virtualmente ancora in corsa, il Napoli lo stesso, se dovesse vincere stasera, dà merito, come si dice, lustro a queste squadre come Roma e Napoli, che non sono sul piano della qualità, sul piano dell'organico, sul piano del budget, forti come la Juventus. Però merito quindi ad esse, agli allenatori, ai giocatori, perché secondo me, io adesso dico una cosa sulla Roma, ma la Roma non è forte come la Juve, eppure la Roma è a 5 punti dalla Juve. La Roma sta correndo con una proiezione di oltre 86 punti, che sarebbe il suo record storico. La Roma, adesso non ho il dato dopo 30 giornate, ho il dato prima di ieri sera, quindi può soltanto essere migliorato nella preparazione di Roma-Empoli. La Roma aveva il terzo miglior risultato di sempre di punti dopo 29 giornate, quindi sì. alla peggio è arrivato terzo, magari sì, è pure sì. migliorato, quindi dice che sta facendo qualcosa di incredibile. Io sono d'accordissimo col mister e credo che ci sia un po' di posizione giusta, logica, perché queste due squadre fanno un grandissimo lavoro e invece, in questo in qualche modo si ricollega secondo me anche a alcune uscite di Spalletti, no? Cioè, o anche della società, c'è la sensazione che questo tipo di lavoro straordinario che Roma e Napoli stanno facendo ormai da anni e in qualche modo non venga riconosciuto, anzi addirittura che passi per degli sfigati che non riescono a vincere. Invece essere lì è più di una vittoria. Il secondo postismo, c'è il rischio che si tratti di secondo postismo. Vi devo fermare, devo salutare Francesco Guidolin, che ringrazio particolarmente. Grazie mister. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Francesco Guidolin. Dobbiamo fermarci perché adesso c'è il GR, poi torniamo e continuiamo anche a parlare di questo Napoli-Juve. Ad esempio voglio sapere da voi se è meglio l'Higuain di quest'anno o quello di Napoli, perché questo è un altro dei temi che ci troveremo ad affrontare. C'è Luigi da Caserta che riprendiamo dopo le 18. Lui sa che opinione ho di lui e questo mi basta, non ho bisogno in un momento in cui sono coinvolto emotivamente in un'altra cosa di dimostrarglielo, quindi te l'ho detto, domani è un avversario come tutti gli altri, purtroppo è un po' più forte degli altri e lunedì lo vedrei sicuramente volentieri, domani non mi interessa. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Tutto può succedere. Occhio a Higuain che si gira subito in area su Barreca. Eccolo qui! Eccolo qui! Il fenomeno bianconero! Gonzalo Higuain! Stop e destro! Palla in porta! 2-1 per la Juve nel derby! 2-1 per la Juve nel derby! 2-1 per la Juve nel derby! Cerca Higuain in acrobazia. Higuain! Non è vero! Goal! Non è vero! Non è vero! Goal! Non è vero, Mauri! 36! Nessuno come lui! Ma non è mica vero! Ma è impossibile così! Il 36esimo così! La tripletta con questa giocata! Ma questo è un film! Io lo so che è un po' come chiedere se vuoi più bene alla mamma o al papà, ma io nei prossimi 10 minuti voglio sapere se è meglio Higuain di quest'anno con la Juve o era meglio Higuain del Napoli, se è meglio Higuain con Allegri o era meglio quello con Sarri. Che significa anche due filosofie di pensiero, di scuola calcio, di modo di intendere questo meraviglioso gioco. 800 24 00 24, c'è Luigi Pardo, c'è anche Adriano Bacconi, il re dei tattici. Bacconi, buonasera. Wow, ciao, un salutone. Ciao. Che scrive tutte le vigilie di partita su Tutto Sport, due pagine molto interessanti, dove analizza quelle che saranno le partite, quelle che saranno le partite della Juve, se la giocheranno così. Dai, qual è l'Higuain migliore? Dai, ditemelo, Adriano Bacconi, Luigi Pardo, Carlo Genta, rispondetemi. Adriano. Allora, io parto io, se volete, dico la mia, che con Higuain il Napoli prendeva molti meno gol, perché era un giocatore che teneva la palla, faceva salire la squadra, era un giocatore più centrale nel gioco di Sarri e dava quindi compattezza, dava equilibrio, al di là dei gol, dei 40 gol che aveva fatto. Mertens è un giocatore verticale che attacca bene la profondità, ma è un giocatore che allunga la squadra. E quindi il Napoli quest'anno, rispetto al Napoli di Higuaín, è un Napoli più squilibrato. Quindi se ha segnato 9 gol in più, ma ne ha presi anche 9 in più, perché questi sono i dati in campionato, è perché manca Higuaín. Sì. Ah, è un paradosso forse, però la penso così. No, ma non è un paradosso perché ovviamente è un meccanismo di vasi comunicanti ed è ovvio che se tu hai un giocatore che fa salire la squadra, che tiene il pallone, è un po' come nel basket, no? Nel basket ci sono squadre che hanno la tendenza a giocare col punteggio alto e squadre che hanno la tendenza a giocare col punteggio basso. Il Napoli di quest'anno in particolar modo è una squadra che è una squadra over, è una squadra che non gestisce troppo le partite, che ha invece una velocità e una qualità quando sta molto bene impressionante. Io credo che oggettivamente la stagione dello scorso anno sia qualcosa di quasi irripetibile, quindi siccome Higuaín poi non si può soltanto dire Napoli o Juve, ci sono 4 stagioni, la terza delle stagioni al Napoli è stata incredibile, veramente incredibile, e secondo me rimane la migliore. Quest'anno secondo me c'è un elemento che va sottolineato, che i gol sono un po' meno di quelli dell'anno scorso, ma sono pesantissimi, cioè in tutte le situazioni complicate Higuaín si è sempre visto, dallo scontro diretto con la Roma, lo scontro diretto col Napoli, e la prima giornata comunque complicata con la Fiorentina, il gol nel derby che abbiamo sentito adesso, cioè sono un po' meno, ma sono pesantissimi. Intanto ha segnato l'Arsenal, che perdeva in casa 2-1 con il Manchester City, da cui in poi ve la raccontiamo. Siamo nel secondo tempo, 8 minuti, colpo di testa di Mustafi, risultato questo che interessa da vicino anche Antonio Conte, ma dopo le 18.30 faremo anche un approfondimento sulla Premier League. A me piace anche capire allora con chi lavora meglio in campo, se con Allegri quest'anno, con Sarri l'anno scorso, no? Lavora splendidamente da tutte e due le parti, secondo però me così non c'è è facile. No, ma non c'è poi tutta questa differenza, fa quasi un mestiere diverso Higuaín quest'anno nella Juventus rispetto a quello che faceva nel Napoli l'anno scorso, cioè non è chiaro che l'anno scorso ha fatto una stagione irripetibile, ha ragione Pardo che era la sua stagione d'oro, ha ragione anche Bacconi che la legge in chiave difensiva, ma è fatale che sia così. Allora lì è stato bravo Sarri a mascherare l'assenza di un giocatore come Higuaín, o a mascherarla nel migliore dei modi, però insomma l'anno scorso il Napoli giocava per Higuaín. Fare il centravanti nel Napoli secondo me è un gran bel mestiere, sì, perché comunque i palloni ti arrivano. Farlo nella Juventus è un mestiere un po' diverso. Ma Allegri sta sfruttando al 100% le qualità di Higuaín, Adriano? Tatticamente, per come gioca, per come lavora, poi evidentemente ci sono i momenti di forma o meno, non segna da 4 partite, e questo ad esempio è anche un dato. Sì, però giocare con tante alternative davanti vuol dire essere un tassello di un puzzle che funziona quasi a prescindere. Perché giocare con un giocatore come Dybala, che comunque è un giocatore accentratore, un giocatore che vuole sempre il pallone nei piedi e poi guarda dov'è Higuaín, è molto diverso da giocare in una squadra dove tutti guardavano soltanto Higuaín. Per cui è chiaro che tocca meno palloni, che tira meno, però poi arriva probabilmente a tirare in situazioni anche più favorevoli. Per cui, come dicevate prima, i suoi gol poi in realtà sono gol pesanti, perché è un giocatore che si stanca meno, che è più preciso sotto porta, per cui forse è meno appariscente ma più cinico. Io penso che sia tornato un po' l'Higuaín che era ai tempi del Real Madrid, dove c'erano tanti campioni e lui era uno dei. Alla Juventus purtroppo per lui, o forse per fortuna, è un po' così. Sì, per fortuna io credo, insomma, credo che non si lamenti. Mi piacerebbe anche sapere se la Juve che vediamo questa sera non è una Juve nella quale Allegri ha preso, non so Pier se hai anche tu questa impressione, ha preso anche un po' l'alibi degli infortuni, della condizione non straordinaria, e gioca un po' più coperto, anche con la scelta a destra di far giocare Lemina al posto di Cuadrado, se confermata, Alexandro che sta fuori. Sì, se venisse confermato sarebbe sicuramente una formazione un po' più difensiva, una formazione in qualche modo figlia anche dei problemi che in questo momento non mancano alla Juve, dei problemi di natura fisica. Dybala ovviamente è il tema secondo me, perché lo ribadisco, l'ho detto 10 minuti fa, cioè è la vera differenza di questa squadra, è il giocatore creativo vero del reparto offensivo. al punto di aver trasformato Higuaín essenzialmente in un finalizzatore che lui cerca con grande regolarità. E poi c'è anche il vantaggio in classifica, che ovviamente non è un dato banale, cioè un pareggio per la Juve oggi potrebbe essere gestito come un risultato tutto sommato positivo. Quindi secondo voi Allegri va a giocarsela anche per il pareggio? Non va a giocarsela per il pareggio, però il pareggio non sarebbe un buon risultato per la Juve, non credo ci sia niente di male. Questo lo dice l'aritmetica, ma è l'approccio che mi interessa. Che Allegri è in una condizione tale, si è messo in una condizione tale da poter essere bello come il sole, come dice lui. Sì. Cioè va a Napoli e se la gioca. E chi attacca il Napoli? Per qualunque risultato, e chi attacca il Napoli? Ma non certo. Credo ci siano grandi dubbi su questo, per un discorso di classifica, per un discorso di fattore campo, per un discorso di caratteristiche. La Juve stasera secondo me farà una partita nella quale proverà a tenere con la grande qualità della sua squadra, della sua difesa soprattutto, e proverà poi a far male e a sfruttare quello che è un dato, uno dei pochi difetti però ricorrenti del Napoli, che è una certa presenza comunque di amnesie, di difficoltà difensive. Insomma, il Napoli qualcosa concede sempre. Credo, guarda, in qualche modo penso sia una partita non molto diversa da come può immaginarsi Juve e Barcellona, per caratteristiche ovviamente, poi qualità magari diversa, però è quella roba lì secondo me. Sì, il che ci fa tornare a quello che diceva anche prima Guidolin, chissà se quel 4-2-3-1 con i cinque fantastici in campo contemporaneamente è uno schema funzionale per anche per la Champions League. Tu che Napoli-Juve ti aspetti, Adriano? Ma io vedo nelle scelte dei due allenatori fondamentalmente la filosofia dei due allenatori. Sarri punta la singola partita e fa giocare sempre la formazione migliore di quel giorno, senza guardare al domani, quindi senza guardare magari la partita di Coppa Italia. Allegri invece è un allenatore che gestisce i suoi uomini e li alterna dall'inizio del campionato praticamente. Quindi non è una novità che oggi ci siano dei cambi, che resti fuori il ballo, che resti fuori il quadrato. Perché l'ha sempre fatto, perché pianifica i suoi giocatori in funzione di una serie di match, e per cui in questa serie di match c'è sicuramente la partita poi di mercoledì prossimo e forse anche quella successiva e forse già anche c'è nella testa il Barcellona, c'è il Barcellona, per cui è una gestione diversa anche dei 90 minuti. Sarri parte sempre con la formazione migliore e poi però arriva in debito d'ossigeno, invece Allegri pensa sempre a dei cambi efficaci che possono far vincere la partita nel secondo tempo, per cui veramente sono due formazioni frutto e figlie del modo di pensare di questi due allenatori. Sì, sono due filosofie diverse. Grazie Adriano. Alla ciao. Prossima, ciao. Grazie ciao, Adriano ciao. Bacconi. Riusciamo a fare Luigi da Caserta prima del traffico. Luigi? No, lo facciamo dopo il traffico. Tutti convocati. È il numero 9 della Juve che prova ad attaccare, attenzione nel corridoio. No! E Higuaín segna il gol dell'ex, e ne abbiamo visti fare tanti con noi. Non mi interessa, sinceramente. Io Higuaín è un ragazzo a cui voglio bene, a cui devo molto. Domani ha la maglia ad un altro colore, domani per me è un avversario. Perché mi dice sti parole amare? Perché? Non è che queste due partite decidono qual è il valore più o meno di Gonzalo. E non si nasconde, cioè, è un giocatore che è stato 3 anni a Napoli, ha fatto tanto, è stato amato, è venuto via, ha fatto una scelta professionale e credo che vada rispettato per quello. Come li dico sempre ai miei giocatori, potete andare in tutte le squadre d'Europa, ma non vi rendete conto che vincere qualcosa qui a Napoli sarebbe diverso. Hai detto anche a Higuaín? Non è che uno può entrare nella vita dell'altra persona, è giusto anche non dare giudizio. Normale che i tifosi napoletani quando sarà in campo prima lo applauderanno e poi lo fischieranno, non so come si comporteranno, però lui è molto, molto sereno, direi sta riprendendo una buona condizione. Lui sa che opinione ho di lui, e questo mi basta, non ho bisogno in un momento in cui sono coinvolto emotivamente in un'altra cosa di dimostrare. il cuore ingrato, vediamo. Poi fra un po' parliamo con José Altafini, che è quello Doc. Cuore ingrato Doc. Vediamo se c'è Luigi da Caserta. Luigi. Ci sono. Eccoci. Buonasera. Dai. Volevo riaffrontare un argomento che il dottor Zanta ha sfiorato prima della pausa. Sì. Io ho paura che la Juve stia arrivando un po' troppo incerottata agli appuntamenti decisivi della stagione. Allegri ha cambiato il modulo nel momento in cui Piazza era rientrato dopo l'infortunio e quindi stava cominciando a trovare un certo tipo di equilibrio. Adesso, con Piazza infortunato, in attacco siamo corti, è costretto a cambiare modulo. Quindi è vero che Allegri è un buono stratega, così come stavate dicendo prima, è anche vero che si è trovato un po' costretto da determinate decisioni che sono state fatte nelle due campagne. Può essere Carlo che ci sia in realtà un problema di profondità davanti. Manca un attaccante nelle rotazioni, e è chiaro che non puoi affrontare, anzi ne mancano due perché è infortunato anche Kine, che è il ragazzino, quindi questo sì, però l'infortunio di Piazza è serio, ovviamente non recupererà per questa stagione e salterà secondo me buona parte anche della prossima, però non credo che la Juventus sia poi così incerottata, perché, e non credo neanche che Allegri si faccia condizionare da questo nel proporre un modulo, anche perché per Dybala si tratta di poca cosa, Mandzukic che era in forza questa sera sarà già in campo, dunque Cuadrado sta benissimo, Higuain sta recuperando la forma, quindi Non vedo grandi problemi, salvo appunto il fatto che si deve partire dalla panchina con un attaccante in meno in chiave tattica. Pier? Sì, no, questo sono d'accordissimo, non è esattamente la migliore condizione per affrontare questa partita per la Juve. È anche un bel test, perché sicuramente insomma un po' di emergenza c'è. No, volevo dire che sai che qualche volta non mi è piaciuto Sarri in tutto quello che riguarda il fuoricampo. Il campo mi piace tantissimo e sai come la penso, però nella gestione di certe conferenze stampa e certe dichiarazioni non sempre mi piace. Devo dire che ieri su Higuain è stato veramente perfetto. C'è una sottolineatura che secondo me è molto bella, che Sarri dice e fa benissimo a dirlo, ed è molto onesto dirlo, che gli deve qualcosa, no? C'è quel passaggio della conferenza stampa, perché è evidente, così come penso che anche Higuain debba qualcosa a Sarri, perché se Higuain ha fatto tutti quei gol l'anno scorso anche grazie al gioco di Sarri e alla fiducia che ha avuto, però non dimentichiamoci che Sarri era un allenatore provinciale, no? Come etichetta, la sua prima vera grande esperienza, si è imbattuto in questo giocatore e anche grazie a questo giocatore straordinario ha combattuto per lo scudetto fino a due mesi dalla fine e ha fatto una grande stagione. Quindi a me quella frase lì mi è piaciuta molto, mi ha veramente colpito, perché la trovo una frase di grandissima onestà detta nei confronti di un giocatore che non è esattamente adesso il più amato, no, via Partenope per dintorni. Quindi no, ma se ti ricordi, veramente una grande dimostrazione di stile da parte di Sarri. Tra l'altro voleva quasi andare via Higuain dopo la fine della stagione precedente, sì, invece ha abbracciato totalmente Sarri e il suo calcio. Aspettate che saluto José Altafini. Ciao José. Ciao, come stai? Ciao José. Noi l'abbiamo detto, lui è il cuore ingrato, quello Doc. Sì, cosa vogliamo chiedere? Il cuore ingrato originale. Ogni volta che gioca Juventus-Napoli-Juventus io devo stare lì a spiegare il cuore ingrato perché ha fatto male Higuain, queste cose qua. Non ti ho fatto perché so già che dovete parlare di questo. E quindi? Cosa fai tu? Quindi devo dire che spero che sia una delle ultime volte, perché sono 4-5 anni che continuo a parlare sempre della stessa cosa, no? Il cuore ingrato, quelle cose lì. Se Higuain ha fatto bene, se Higuain verrà fischiato, che ne so io. Ma Higuain ha fatto benissimo, no, dal suo punto di vista. Secondo me ha fatto benissimo anche De Laurentiis a mettergli l'etichetta col prezzo e a rifarsi la squadra. È stato un bene che Higuain sia stato venduto a 90 milioni, perché così almeno aveva la scusa di dire che era cuore ingrato. Però lui ha fatto benissimo, ha fatto bene anche Napoli. Voglio dire, certo, quando uno incassa 90 milioni non può dire che è un cuore ingrato, ti pare? Certo, ma hanno ragione anche i napoletani che ragionano col cuore. Stiamo . Parlando comunque di professionisti, e anche Higuain ha fatto bene nell'andare comunque in una squadra che lui ha voglia di vincere. Allora, volevo dire un'altra cosa: perché che Ibrahimovic, che ha sempre il mal di pancia, nessuno dice mai che lui è è cuore ingrato. Lui va via tutte le squadre che va, ogni tanto fa le cose. Allora, noi abbiamo visto gli allenatori che cambiano la squadra, abbiamo visto i giocatori che cambiano la squadra, sono tutte cose normali. Perché poi, Giuseppe, perché Higuain, perché Ibrahimovic non è stato simbolo da nessuna parte, è stato grande giocatore ovunque. Il simbolo non esiste più, perché il simbolo, quando un giocatore sta in una squadra, dopo 2 o 3 anni lo vendono, il ragazzino che è tifoso, che ha il suo idolo, eccetera, non può, chiaramente non lo segue più. Cioè, non esiste più il Rivera, Massola, quella gente lì che giocava 10-15 anni, Baresi, eccetera, no? Noi siamo lì a parlare ancora di cuore ingrato. Ibrahim ha fatto benissimo. Ma ti piace più Higuain di quest'anno o quello del Napoli? Ma Higuain è la stessa cosa, so che si fa meno gol perché nella Juventus segnano tutti. Però io voglio dire una cosa, che questi trasferimenti storici, cioè che ci siano dei trasferimenti che fanno storia, vale ovunque, c'è anche a Dortmund, da Lewandowski a Goetz, cioè non è che se da Dortmund, e non è che siano persone latine come noi, se da Dortmund vai al Bayern Monaco e se ti becchi gli insulti e ti becchi i fischi, cioè questo fa parte della vita e della logica del calcio di qualsiasi latitudine. Chiaramente Higuain ha fatto una scelta che in qualche modo si è messa veramente... Allora, è molto semplice, guardate Neuer giocava in un'altra squadra, è stato venduto al Bayern, i tifosi non hanno fatto tutto sto casino che fanno qua in Italia, capito? C'era anche Podolski che giocava in un'altra squadra. Solo nel nostro paese c'è questa storia di cuore ingrato. Sì, a Barcellona e Madrid non l'hanno presa benissimo, la storia di Figo. Figo perché sono un po' più latini. È stato per Figo. Sono un po' più latini di noi. Però sinceramente questo è il calcio. Cioè, io mi meraviglierei, ma sono sicuro che Higuain non è che si meraviglia. Cioè, quando lui ha fatto questa scelta è ovvio che passare da una squadra che arriva seconda alla sua grande rivale che arriva prima è ovvio che è un tipo di scelta che lo porta a delle critiche. Sono d'accordissimo con Giuseppe sul fatto che poi quando c'è un prezzo così alto, e soprattutto un prezzo che era stato fissato in qualche modo dal Napoli, dal punto di vista tecnico di che tradimento stiamo parlando? Il vero tradimento, semmai il parametro zero, è il giocatore importante. Ha venduto Zidane, ha venduto Henry, ha venduto un sacco di giocatori, l'ultimo è Pogba. Certo. Sono scelte di mercato e se sono pagate in quel modo lì fanno benissimo a farli. Ma poi tra l'altro questo magari avrà fatto anche più male ai tifosi del Napoli, non è stata neanche una scelta strettamente economica da quello che sappiamo se confrontiamo i due stipendi, è stata una scelta più che altro di prospettiva perché Higuain probabilmente pensava, andando alla Juve, di poter vincere di più, insomma, ma questo, ripeto, fa parte delle scelte di un giocatore che stasera verrà fischiato e secondo me finisce lì. I veri tradimenti, da un punto di vista poi tecnico, secondo me sono quelli della Casi Zeno, perché... Però c'è un'altra cosa da dire, che questo qui naturalmente non è una colpa di nessuno, i tifosi del Napoli sono caldi, amano il loro giocatore, eccetera. Higuain ha dichiarato poco tempo fa che Napoli non usciva di casa. A Torino non esce di casa, va in giro, va al parrucchiere, va a mangiare. Cioè, è un altro coso di vita, capisci? Anche. È un po' più facile stare a Torino, essendo un grande calciatore, anche se Napoli evidentemente ha dei vantaggi straordinari. Sì. Volevo fare un'ultima domanda, poi ti chiedo anche il pronostico, però la domanda è questa. Ma davvero se stasera i tifosi del Napoli riuscissero a essere completamente indifferenti ai Higuain potrebbero un po' destabilizzarlo? Perché magari il grande campione si carica coi fischi, con tutto lo stadio contro, l'indifferenza potrebbe invece dargli fastidio. Ma guarda, io se il giocatore è forte, io ho conosciuto dei giocatori che quando entravano in campo, la prima palla che sbagliavo i tifosi fischiavano, non giocavano più. Io non credo che Higuain sia di questo tipo qua. Possono fischiare, io sono andato a Napoli, mi hanno fischiato e ho fatto gol. Cioè, voglio dire, sono cose che dipende dal carattere del giocatore. E ci hai provato anche un po' più gusto? No, gusto no, perché faccio il mio dovere. Io odio quando un giocatore non vive, non esalta quando fa il gol, lo esulta. Anch'io, bravo. Anch'io. È una maleducazione, è una scorrettezza nei tifosi, sui propri tifosi e anche con la squadra che lo paga. Sì, d'accordissimo. Detto questo, sto vedendo Arsenal e Manchester City e non mi distraete, per favore. 2-2. Buona giornata. Ciao, Giuseppe. Ciao. Vabbè, Gianluca da Napoli è straordinario. Gianluca, buonasera Alessandro, a tutti. Volevo parlare della partita, ma purtroppo non ne parlerò perché sono molto amareggiato di quello che sta succedendo da tempo in membro oramai per quanto riguarda la Juventus. Sempre cosa sta succedendo? Sempre le stesse cose. Quando c'è qualche errore contro la Juve sono errori, quando è a favore della Juve sono ruberie. Se vedesse, se sapesse il clima che si respira a Napoli, io ho un bambino di 3 anni e mezzo. Tu sei tifoso della Juve? Esatto, una paura, ma una paura pazza che possa diventare tifoso della Juventus e subire tutte le angherie che subisco io e che subiamo noi diciamo juventini della Campania. Ma questa sera vai allo stadio, Gianluca? No, assolutamente, non ci vado dal 98, perché stavo per essere iniziato a Napoli, diciamo, allora giocava Zidane. Voi ovviamente saltate i tifosi del Napoli perché magari vi fa gioco, ma no, abbiamo detto che è una tifoseria appassionale. Quello è un campo impraticabile, sì. Perché sta solo napoletani, ci sta qualcuno che la pensa diversamente si può rischiare la vita. Stavo dicendo, ho un figlio di 3 anni e mezzo, una paura matta che posso diventare juventino, perché c'è un'area irrespirabile dal punto di vista calcistico. Se vedeste i giornalisti di Napoli con quanto odio trattano diciamo il tema Juventus, che seppure la metà sarebbe troppo. Io non credo, io perdonami, odio mi sembra una parola esagerata. Ieri la conferenza stampa pre-partita, io l'ho detto prima, è stata disseminata di 2 o 3 trappoloni che secondo me Sarri ha saltato in maniera molto elegante, sì, e intelligente, è vero. Pier. Però no, questo è vero, fa è vero. Parte anche del mestiere. Ma anche il Napoli ha fatto un bel tweet l'altro giorno, l'hai sottolineato, sì, invitando tutti. No, però insomma, voglio dire, noi siamo a Milano in questo momento. Io credo che se tutto andrà bene, lo penso, anche perché poi credo che i napoletani abbiano questo straordinario dono dell'autoironia, e non è che lo dico perché mi fa gioco, lo dico perché lo penso, e quindi sono convinto che rimarranno semplicemente spottò. Come si dice, riceviamo e volentieri pubblichiamo, no? Come si scrive sui giornali, lo sfogo del nostro amico che ci chiama. È chiaro che sicuramente la rivalità negli ultimi tempi è cresciuta molto, da una parte e dall'altra. È cresciuta perché il Napoli è diventata una grande squadra. Assolutamente, e poi quando c'è qualcuno che si comporta male, l'aggressione qualche tempo fa, ma insomma non generalizzerei, ci sono purtroppo i delinquenti, sicuramente è un momento delicato. Sicuramente è un momento delicato, quindi insomma la telefonata del nostro ascoltatore come ci sta tutta, e speriamo che sono convinto che tutto andrà bene. Siamo convinti che stasera andrà benissimo, Pier, dai, cerchiamo di essere ottimisti. Ci mancherebbe altro. Allora, io ti saluto e ti ringrazio, Pier, sentiamo a domani. Domani, ragazzi, domani diamo anche la schedina perché è ancora tutto aperto, diciamo, sì, questo. Proprio tutto non è aperto. È ancora tutto aperto. Cioè, è ancora tutto aperto. Al massimo, ciao Pier, domani. Al massimo pareggi. Torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Maurizio dalla provincia di Catanzaro. Maurizio. Sì, buonasera. Eccoci. Buonasera, grazie intanto per la telefonata. Vai. Niente, io volevo intervenire per quanto riguarda il Milan. Io ho sentito un pochettino anche l'intervista all'allenatore del Milan, ma non riesco, guardando le partite del Milan, onestamente, ma non solo questa partita, non riesco a capire la poca convinzione che ha questa squadra nell'interpretare una partita come oggi, che è quella di una partita, era quella di una partita importante, no? Si cerca di raggiungere un traguardo che per il Milan potrebbe essere, voglio dire, per come erano le previsioni, una cosa, un traguardo importantissimo, però vedo dei giocatori senza motivazione, insomma, e la cosa più strana è che nessuno parla di questo, ecco. Io però Maurizio, perdonami, non sono d'accordo, cioè il Milan manca di qualità, ed ha una qualità che probabilmente non è sufficiente per arrivare oltre i 70 punti che servono per andare in Europa League. Mi pare che in tutta la traiettoria di questa stagione, se c'è una cosa che non è mancata, è la determinazione. Poi altre squadre a Pescara vincono a mani basse con la qualità, mani basse neanche tanto, l'Inter ci vinse con 2 gol negli ultimi 2 minuti, però doppietta di Cardi, che ad esempio è un giocatore che questo Milan non ha. No, ma è evidente, questo è evidente, rimane il fatto che questo è stato un anno di semina, e per la prima volta dopo molti anni si è seminato davvero. Adesso andiamo a vedere come finisce la telenovela del closing. Rimane comunque alto il voto di Montella, che finisca in Europa oppure che come più probabilmente, non ci finisca. Poi, dovesse andare male, questo, non c'è da buttare via tutto. No, non c'è da buttare, assolutamente. Buonasera. Arrigo, buonasera. Ho sentito che mi avete chiamato, ma sì, ero lì a coltivare le mie melanzane bicazzute, e quindi non chiamato, potevo rispondere. Però, siamo contenti che, di averti qui. Io volevo fare una considerazione. Sì. Ci sono certe squadre che fanno del possesso palla il loro credo, come per esempio il grandissimo Milan di Montella. Ci sono invece certe squadre, come per esempio l'Atalanta di Gasperini, la Roma di Spalletti, che fanno dell'infiammazione delle palle il loro credo. In termini tecnici lo chiamiamo orchite, palle grandi così. Questa è la settimana di Sacchi, no? Sai che se l'è presa con Ventura, che poi si è arrabbiato. Lui adesso fa commentatore. Comunque il Milan ha pareggiato Pescara. Invece non è complimenti vivissimi a Montella. Perché il Milan ha espresso a Pescara un gioco totale. Ma insomma, segnano anche i difensori come Paletta. Non è vero. Ci sono Gabi, ripartenze sulla fascia, sulla fascia, mentalità veramente vincente. Invece chi è che possiamo... Io volevo fare un'altra... complimenti veri, a chi li facciamo? I complimenti veri. Sì. Volevo fare una considerazione su Spalletti. Sì, Spalletti, adesso è secondo in classifica. Su Spalletti, Arrigo. Arrigo. Scusate, devo dire che secondo me il gioco di Spalletti è narcolettico. Ma non è vero. Al punto che quando mi nominate Spalletti... Ma non è vero, la Roma gioca bene, ieri ha giocato... Pensi Capuano che ieri guardando la Roma mi sono addormentato dopo il terzo minuto di gioco. Oddio, gioco si fa per dire. Si è perso una bella Milan... Ha sempre una buona parola per tutti. Il mio Milan era un'altra cosa, perché io ho rivoluzionato il calcio mondiale. Ho dato un'impronta personale a tutto quello che verrà. Sull'Atalanta, dai. Devo dire che almeno l'Atalanta ne parliamo bene. La mia osservazione sull'Atalanta è un gioco assolutamente imbarazzante, squadra improvvisata e povera di idee. Ma si riesce a dire qualcosa di buono? L'Atalanta ha fatto un record storico di punti, oggi ha vinto 5-0 a Genova. Guardi, glielo giuro sulla testa di Ventura, che lei si sbaglia. Sì. I gol sono nati da pura assoluta casualità. Ma non è possibile. Anche su quella di Allegri, credo. Sì. Complimenti, complimenti gente, complimenti vivissimi. Grazie. È sempre la parola giusta. Grazie anche al nostro Arrigo Sacchi. Porterò delle melanzane bicazzute. Grazie, di cui sono io. Anche a Mercù. Parliamo un attimo di Conte, di Premier. Intanto 2-2 Arsenal-Manchester City, 8 minuti alla fine. I think today we deserve at least to draw. I don't want to tell to win, but at least the draw, because I think we created many chances to score. We dominated the game against Crystal, against a team very strong with a real good players. Yeah, it's a pity, but I think today it wasn't our day. Questo Conte ieri dopo la partita persa in casa contro il Crystal Palace. L'Arsenal gli sta facendo un favore, perché sta bloccando sul 2-2 il Manchester City, che finisse così rimarrebbe a distanza di sicurezza 11 punti dal Chelsea. Nicola Roggero, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, mi sembra che le sicurezze ci siano già tutte, dai Giovanni. Beh, insomma, guai a distrarsi, però forse aveva ragione Conte alla vigilia quando diceva basta parlare di contratto futuro e altro, perché la Premier non è vinta. Nicola. Sono d'accordo, anche perché voi fate i conti sul Manchester City, però il Tottenham ha 7 punti, che sono tanti, però non bisogna dimenticare chi ci sarà: Manchester City-Chelsea, e per il Manchester City ragionevolmente tardi, ma se mai dovesse vincere il Manchester City farebbe un bel favore al Tottenham, che per carità non ha più gli scontri diretti con il Chelsea, anche se poi li ha sfruttati, perché almeno quello in casa l'ha vinto. Però ha fatto bene Conte a richiamare l'attenzione ai suoi, perché ieri una partita col Crystal Palace, che sembravano i classici tre punti sulla carta facili, a maggior ragione per il fatto che il Chelsea aveva subito segnato con Fabregas nei primi minuti, e invece è arrivata una sconfitta che non dico complichi i piani, perché ovviamente il Chelsea rimane strafavorito, però ha richiamato appunto l'attenzione che questa squadra deve avere, perché oltre al confronto col City ci sarà poi anche quello in trasferta all'Old Trafford con lo United, e a giudicare da come si sono presi Mourinho e Conte nella presa di campo, non vede l'ora José, non vede l'ora José, ma scherzi. Secondo me ieri si è anche confermato che questo Chelsea ha un valore aggiunto, che è Antonio Conte. La squadra sarebbe certamente perfezionabile, il che poi porta all'altro tema, quella se Conte abbia voglia o no l'anno prossimo di riprovarci. accenti di meglio che riprovarsi, tenendo presente che non sarebbe soltanto riprovarsi in campionato, ma avrebbe a disposizione anche la Champions, che quest'anno non ha disputato, e quindi sarebbe uno schivo notevole. Poi sulle motivazioni che l'allenatore può avere, ovviamente dipendono tanti altri fattori, però non penso che sì, ma questo Chelsea, Nicola, questo Chelsea secondo te è da prime quattro d'Europa? Perché poi se torni in Champions ti chiedono quello. Io credo che il ragionamento di Conte possa essere fondamentalmente questo. È vero, però tutto sommato di squadre che sono sicuramente meglio del Chelsea fatichiamo a trovarne quattro. Diciamo il Bayern, diciamo le due spagnole, diciamo la Juventus, insomma il Chelsea è da quinto, siamo lì. E tenete presente che il Chelsea quest'anno di fatto non è stato rinforzato, certo. Perché insomma ha preso Kanté bene, ha preso Alonso, ma sfido tutti a considerare l'ex giocatore della Fiorentina uno di quei rinforzi che faceva pensare a una squadra che cambiasse per il suo arrivo. L'anno prossimo potrebbe esserci una campagna acquisti molto più massiccia, per esempio potrebbe esserci l'aggiunta di una punta in più a dare una mano a Costa, non tanto in campo ma quanto magari nell'alternanza, sempre che Diego Costa rimanga al Chelsea. Bisognerà convincere Hazard a rimanere, ma insomma Hazard si dice che potesse andare via l'anno scorso, e credo che quest'anno con Conte abbia capito che col Chelsea può comunque conquistare ancora tanti trofei, compresi ovviamente dei trofei in Europa. Mi sorprenderebbe, ecco, se Conte andasse via, tenendo presente l'impatto che ha avuto sulla Premier e soprattutto la considerazione che la Premier ha adesso di Antonio Conte. Quindi tu ti iscrivi al partito di quelli che pensano che Pioli possa dormire tra due guanciali. Stefano, stai sereno. Ce ne sarebbe altro. Sì, ci sono problemi più grandi. Dico che mi sembrerebbe strano che un allenatore lasciasse il Chelsea, dove lui ha compiuto, o comunque sta compiendo, un miracolo, perché non dimenticare che noi l'anno scorso è arrivato decimo il Chelsea. Quindi il riferimento non è alla forza del Chelsea, il riferimento è a una squadra che era arrivata decima in classifica. E in questo momento prima... E se insomma non capita un disastro, dovrebbe rimanere prima anche alla fine del campionato. Per tutto un stimolo poi giocare la Champions League. Attenzione, ne aggiungo un'altra: il Chelsea è in semifinale di FA Cup. Dovesse fare una doppietta FA Cup e campionato, insomma, non dico una stato davanti a Stamford Bridge, però sarebbe una di quelle stagioni che tra 50 anni si ricordano. Sì. Conte comincerebbe a picconare il mito di José Mourinho, motivo in più per cui quella trasferta lì è particolarmente delicata. Grazie Nicola. Ciao Nick. Grazie, sentiamo presto. Grazie Nicola Roggero. Intanto 2 minuti alla fine, Arsenal Manchester City 2-2. Saluto anche Carlo che ritrovo domani dopo il giro delle 14. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta convocati. Un giorno in prima pagina Pioli resta confermato, il giorno dopo Conte, l'Inter ci prova, tutte queste voci danno fastidio. No, assolutamente no, perché so che fanno parte del gioco e credo che troppe volte noi parliamo dello stesso sport ma con degli obiettivi diversi. Il vostro obiettivo in questo momento è parlare molto del futuro ed essere poco concentrati sul presente, il nostro invece, il mio, è tutt'altro. È quello di essere concentrato assolutamente sul presente per fare il meglio possibile, per dare tutto il massimo, per ottenere i risultati migliori possibili per quest'anno e per costruire qualcosa, una base solida poi per il futuro. Altra mezza bugia della domenica, secondo me, questa di Pioli. Le voci alla lunga possono anche disturbare. Massimo Paganin, ciao. Ciao, ciao, buon pomeriggio, buonasera. Che dici, alla fine disturbano un po' o no le voci? No, credo che un po' infastidiscano comunque, perché Pioli sta facendo molto bene e quindi credo un po' infastidiscano, però fa parte delle regole del gioco, fa parte del mestiere, essere sempre accostati a qualcuno che magari ha ottenuto dei risultati importanti, che quindi potrebbe essere, diciamo così, un eventuale sostituto. Io credo che il giudizio positivo sul lavoro di Pioli sia condiviso e unanime. La domanda è un'altra, cioè se Pioli può resistere al fascino dell'idea di portarsi Conte o Simeone sulla panchina. Certo, difatti questo è il punto. Una squadra come l'Inter sta cercando sicuramente un allenatore che possa essere un allenatore vincente, che possa essere Pioli, perché dimostra di essere in grado di vincere con l'Inter oppure la scelta ricade su un altro allenatore, questo ovviamente lo sanno solo i vertici dell'Inter. Ripeto, Pioli ha fatto un buon lavoro, però se andiamo a prendere le 17 partite fatte fino a questo momento, e sarebbe comunque dietro alla Juve, al Napoli e alla Roma, sì, se non sbaglio, comunque, quindi vuol dire che anche gli altri allenatori e le altre squadre hanno fatto molto bene. Vero sì, che comunque... però oggettivamente, Massimo, l'Inter è con una rosa inferiore alla Juve, al Napoli e alla Roma quest'anno? No, non è con una rosa inferiore, è chiaro che è partita da un progetto che è stato rivoluzionato completamente tra l'inizio dell'anno, sono cambiati tre allenatori prima che arrivasse Pioli praticamente, se prendiamo in considerazione che è partito Mancini a fare il ritiro comunque all'inizio della stagione, sono passati poi per Vecchi per poi prendere, per De Boer per poi prendere, passare per Vecchi, alla fine è arrivato Pioli, quindi capisci bene che sono passati tre allenatori. E il progetto di lavoro è venuto meno, ha dovuto ricominciare praticamente da zero, e diciamo che il lavoro che lui ha fatto è stato un gran lavoro, considerando che gli allenatori che c'erano nelle panchine di Napoli, Roma e Juve erano allenatori che c'erano precedentemente, quindi avevano già impostato il loro progetto, già il loro lavoro, un modulo, un sistema di gioco, giocatori che erano già presenti, quindi al di là di tutto la rosa dell'Inter è un'ottima rosa, in prospettiva è stata costruita nel modo giusto, Pioli ha potuto lavorarci solamente per nelle ultime 17 partite. Questo sicuramente non è che sia un attenuante o altro, ma è chiaro che dobbiamo effettivamente analizzare il lavoro dell'allenatore, che è un lavoro che deve partire da zero, deve poter contare su dei giocatori che hanno determinate caratteristiche, quindi è un lavoro molto difficile e complicato. Se si comincia a metà anno è chiaro che questo è molto penalizzante per chiunque, quindi io credo che al di là di tutto Pioli ha fatto molto molto bene, così come era successo a Spalletti, se vogliamo, lo scorso anno quando è subentrato Garcia. La squadra, sì, però Spalletti buona, non lo metteva in dubbio nessuno l'anno scorso. No, lo so, sono d'accordo e capisco, ripeto, però la proprietà dell'Inter è una proprietà importante, una proprietà che ha tanti soldi, quindi ci sta che soprattutto gli addetti ai lavori, le persone possono pensare che chi ha questo tipo di disponibilità possa pensare di poter prendere il meglio che c'è sul mercato. Però il punto è questo, non è detto che il meglio non sia per il momento Pioli per l'Inter, ripeto, quello che deve fare comunque, l'ho già detto altre volte, mi è stato chiesto altre volte, è chiaro che lui dovrà mettersi in discussione, è chiaro che una squadra come l'Inter punta ad avere degli allenatori che vincono, perché in piazze come quella di Milano, l'Inter, Milano, piuttosto che la Juve, sono piazze nelle quali bisogna vincere subito, non c'è tempo di aspettare, questo è il problema, se vogliamo, il bello o il brutto, nel senso che di chi fa quel lavoro è il bello perché si può vincere, il brutto perché si è messo in discussione continuamente, questo è un problema. Era già successo a Mancini, se ci ricordiamo, quell'anno dopo aver vinto molto, dopo l'eliminazione con il Liverpool e un'esternazione sbagliata, Moratti prese Mourinho mentre Mancini era lì, aveva già dimostrato molto comunque Mancini, quindi al di là di tutto credo che sia un percorso e una situazione che non è inusuale e del quale non dovremmo stupirci se dovesse alla fine finire con la scelta, diciamo, di portare un top allenatore insieme a qualche grande giocatore. Grazie Massimo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Massimo Paganini. Intanto è finita la partita tra Arsenal e Manchester City, è finita 2-2 e quindi il Manchester City rimane a distanza di sicurezza dal Chelsea, che ha 7 punti di vantaggio sul Tottenham pur avendo perso ieri. Manca poco, ormai mancano poco più di 2 ore a Napoli-Juve. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, e poi Paolo Corleoni, Pietro Lacorte, che si sono alternati in regia. Vi lascio con il nostro Andro Mercù, che si è travestito da Luciano Moggi e alla vigilia di Napoli-Juve ha chiamato i Napoli Club per chiedergli perché ce l'hanno su con la Juve. Sono Luciano Moggi, come andiamo? Mi senti? Senti, devo andare a fare un culo adesso o più tardi? Pronto? Buonasera, sono Luciano Moggi, come andiamo? Luciano, bene Luciano? Io ho vissuto tanto a Napoli, io voglio bene a Napoli. Ma perché ce l'avete tanto con la Juventus? Perché rubano. Ma non è vero, praticamente i torti del campionato si bilanciano. No, una volta rubano, i danni rubano. Dell'uno, no, non è vero. Rubano, assolutamente. Poi al migliore. Però senza aiuti. Senza aiuti, io sono d'accordo, noi senza non aiuti. Abbiamo mai avuto aiuti. senza Iudini. Senti, ma domenica dovete accogliere bene anche Higuain, merita l'accoglienza di un grande campione, non fischiatelo. Ma secondo me la miglior cosa è essere indifferenti. Ma no, però, bisogna Higuain a Napoli a frenare uno stadio, le curve si stanno preparando. Vabbè, ma i napoletani sono gente per bene. Ma tu lo sai che la Juve è la cerima nemica, quindi vabbè che sia nemica, fa parte del gioco di tutte le partite, vinca il migliore, cioè noi senza aiutini. Senza aiutini vince la Juve, non deve vincere con gli aiutini. Però voi accogliete come si conviene una grande squadra, un grande giocatore come Higuain, va bene? Certo, Higuain è un grande giocatore, però è sempre un traditore come si è comportato. Non si fanno le visite mediche di nascita. Costo. Tu sei non, molto... non doveva andare via così. Come ti chiami? Sei molto simpatico. Nel, come ti dico io, nel 90. Che è successo? Nel 90 ci siamo pure visti. E allora? Secondo scudetto, quando siamo a Napoli. Bei tempi. È venuto un club che ci avevamo e... Pronto? Sì, buonasera, sono Luciano Moggi. Come sì, andiamo? Salve, come sta? Sto benissimo, voi come state, amici? Ma si potrebbe stare meglio. Allora, io volevo sentire innanzitutto come andiamo, come quale sarà l'accoglienza per la Juventus. Perché... Devi chiamare De Laurentiis, non devi chiamare per Lo so, Aurelio. Aurelio è amico suo. Ma perché in questi ultimi mesi il Napoli ce l'ha tanto con la Juventus? E sono i media nazionali che ce l'hanno con la Juve, noi il Napoli. Io poi ho avuto il piacere di conoscerla. Certo. Ai tempi di Juventus. Lo so, per bei tempi. So che lei che persona è. In gamba. Un saluto agli amici di Napoli. Arrivederci, ciao. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!